Sintonizzati, inizia la trasmissione. Mars e Vintro, Radio Wombat in onda per la lezione sulla doppia selezione di tracce bomba da collezione. In missione notturna come un pescatore. Tu cerca altrove se vuoi musica di merda. Se vuoi il contrario, schiaccia play e segui la diretta. Ti culla da stanco e la spinta se vai di fretta. Imposta sessioni notturne sulla giusta frequenza. Vieni Marione, spara più a minchia. Bianca. La giusta. Vai, aprite la cazzo di porta. Ah, la porta. È perché volevo fare la doppia sulla culla. Sulla. Mo apri. Ma la culla no. Non è quello qui. Ciao. Buon pomeriggio, bentornati su Sessioni Notturne, Radio Wombat. È sempre bello avere a che fare con questo nostro pubblico meraviglioso. Più o meno. Più o meno sempre, soprattutto quando loro hanno a che fare con noi. È ancora meglio. Pazzesco. Oggi abbiamo un beat tape di... Pazzesco, d'eccezione, non l'avevo visto. Non è un beat tape. infatti. Però è d'eccezione perché la puntata lo merita. Allora, aspetta, ok. Oggi, vabbè, annuncio la puntata e poi andiamo, dai. Vai, sì. Allora, cosa è successo? Non sappiamo che fa, in realtà. Quindi abbiamo detto, vabbè, dai, facciamo una puntata sul sampling, che tanto che diciamo che dobbiamo farla, e poi non abbiamo fatto mai niente, perché io fondamentalmente sono pigro, anche lei, anche se molto. Non lo ammette. Quindi abbiamo scelto dei pezzi fichi, perché i pezzi che abbiamo scelto sono obiettivamente fichi, e abbiamo trovato il sample di questi pezzi, quindi da dove è stato campionato il beat, e vi facciamo sentire. Quindi oggi non solo hip hop, oggi... ma anche i pezzi originali che sono stati esatto, scelti. Quindi sì. Oggi un po' di tutto. Magari vi passiamo dei pezzi wow, oppure dei pezzi che hanno cagato, sono gusti no, vostri. No, sono tutti wow. No, non è vero. Non è vero, però sono interessante, interessante. È sempre stato un gioco molto carino quello di sentire e riscoprire i pezzi campionati, capire come erano stati campionati, che cosa era stato cambiato nei campioni presi. Sì. Molto divertente. E quindi per l'occasione, come beat tape, abbiamo lo Scarum Peterson Trio. Quindi oggi, che comunque è stato campionato da chiunque se lo sia sentito. Quindi abbiamo un po' di come sottofondo. Quindi, vabbè, annuncia il primo pezzo. Che è allora, questo? Il primo pezzo da cui partiamo... Non dire però, ovviamente, il sample di che pezzo è. No, vabbè, certo. Prima vi facciamo sentire il pezzo e vediamo se intanto voi, nelle vostre teste, indovinate qual è il pezzo da cui è stato campionato. E, insomma, una cosa del genere. Poi ci mandate un messaggio al 332-5222-2252. Come minimo è un numero reale adesso e questa persona ci riceverà cifre in più, un sacco di messaggi, perché c'è un sacco di gente che ci ascolta. Vabbè, scriveteci su Facebook se ci ascoltate. Ma molto velocemente. Vi risponderemo tra una settimana. Esatto. No, non è vero. Allora, dicevo, il primo pezzo è un pezzo molto, molto bello, molto originale, che... degli anni 70, che era di un autore che è uno dei re di un genere di quegli anni lì, diciamo, del piano bar, in un certo senso. E un artista che tra l'altro a me piace moltissimo, anche se non è simpaticissimo, però come musicista devo dire veramente una mente contorta ma illuminata, e questa era una bellissima descrizione. Veramente una mente contorta ma illuminata. Allora... stiamo parlando di Billy Joel, e il pezzo che vi facciamo sentire si chiama Moving Out. Vado? Yes. Your money, and it seems such a waste of time. If that's what it's all about, mama, if that's moving up, then I'm moving out. defenders. And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, mama, if that's moving up, then I'm moving out. Get for your money. And if that's what you have in mind, yeah, if that's what you're all about, good luck moving up, 'cause I'm moving out. Eccoci qua, questo finale in fade out di Billy Joel che apre il sipario su questa nostra meravigliosa puntata. Oggi sta tirando fuori un sacco di quasi di belle frasi, vero? Ditemi di sì, ditemi di sì. Qualcuno li dica di sì, vi prego, io non ho intenzione di farlo. Allora, il nostro Billy Joel, che è comunque un capostipite, io comunque... ho dei seri problemi di dizione, secondo me devo veramente darmi una controllata. Allora, è bello che tu l'abbia scoperto solo oggi, però. Ok. Ok, questo mi consola, va bene. Mettila con gli applausi e il numero del cesso che il rumore del cesso che scarica, così capito quando diciamo le cagate, mettiamo gli applausi. Tipo quando diciamo dici te, quando dico io invece metti il rumore. Vabbè, anche te averti qualche applauso, dai. Oggi no, però oggi no. Va bene, va bene. Dicevamo il nostro Billy Joel che nasce a New York, proprio nel Bronx. Quindi qualche collegamento possiamo comunque farlo lo stesso, anche senza il campionamento. Esatto, nel 49. Quindi ha comunque una certa età, una certa storia. Un talento dalla nascita, ovviamente. Se chi di voi lo conosce lo sa, cioè è proprio uno che era nato per fare quello. Ha scritto dei capolavori tuttora in voga e tuttora riutilizzati da qualsiasi realtà nei media e in quello che viviamo tutti i giorni. Anche se in realtà è pazzesco come la gente in realtà non conosca Billy Joel in quanto artista, ma conosca tutti i suoi pezzi, perché poi i suoi pezzi sono famosissimi. Ma sì, ma è come dire, capito? Ah, bello quel pezzo, conosce un pezzone, capito? Ma ti ricordi The Grey Room? Però, capito, nessuno ti dice di George Benson, capito? È vero. The Grey Room. Bello l'effetto della... Molto bene, molto molto bene. No, niente, due notiziette su Billy, visto che l'abbiamo comunque portato in radio. Lui inizia nel 76 ed è proprio nel 76 che pubblica il suo primo disco autoprodotto. Quindi anche lui parte dal basso, che si chiama Turnstiles. Ma questo disco contiene un pezzo, in realtà due pezzi, però uno che a me piace particolarmente, che è un classicone, che è New York State of Mind, che è uno di quei pezzi che lo senti e sei già lì. Cioè proprio ti trasportano in questa New York poetica che lui vive in realtà come una condanna in un certo senso. Poi ovviamente il disco che vi abbiamo passato oggi è The Strangers, il pezzo era Moving Out, Anthony's Song. E The Stranger è un disco del 77, scusate, che lui, che tra l'altro c'è questo aneddoto molto divertente, perché lui si ispirava ovviamente ad Elton John per tante cose, però al contempo c'era una certa competizione, perché alla fine il genere che facevano era più o meno lo stesso, e tra l'altro Elton John riusciva ad avere molto più successo perché era un personaggio molto più di impatto rispetto a Billy Joel, che invece c'ha una faccia molto più da uno che lavora alle poste, cioè c'ha una faccia molto più tranquilla. questo era l'intervento di Mars nel frattempo. E quindi lui si approfitta del fatto che per un momento Elton John esce dalla scena, decide di lasciare tutto, si prende una pausa, e allora lui si lancia immediatamente e fa uscire appunto The Stranger, che è un disco che lo porterà poi al successo maggiore, perché contiene My Life, Honesty, tutti quei pezzi che conosciamo tutti, di Honesty, Such a Lonely World, quelle lì che, sì, scusate il mio intervento canoro, ma ne avevo bisogno. E niente, fino ad ora lui continua comunque credo che non faccia uscire un disco da un secolo, questo non lo so, però quello che so è che continua ad esibirsi spesso, è ancora in grado di farlo e ancora tutti desideriamo che lui lo faccia. E niente, vi abbiamo passato questo pezzo qua per un valido motivo, che chiederò a Mars di annunciare perché si sta annoiando molto. È bello anche sentire Oscar Peterson e basta, in realtà. No, non c'ho voglia proprio oggi, guarda. Strano. Allora. Loro signori vogliono accomodarsi per ascoltare il prossimo pezzo che passeremo qui in radio. Abbiamo un gruppo molto conosciuto nella scena hip hop internazionale, nonché francese, anche, per forza, sono francesi. Vi stiamo per passare un pezzo chiamato anche On and On, degli Hocus Pocus. Ma so come? Scusa? On and On. Com'è? On and On and On and On and On and On and On. Ah, ecco. Esatto. Vi passeremo On and On degli Hocus Pocus. Di cui abbiamo largamente comunque discusso. Già largamente discusso, in cui spero non si lanci oggi in un altro monologo sulla vita dei francesi la mia qui presente assistente. Manderemo adesso il pezzo, speriamo che voi cogliate il campionamento del pezzo di Billy Joel. Se non lo fate, vuol dire che siete ignoranti proprio. No, questo non è essere ignoranti. No, sto scherzando, è semplicissimo, si capisce subito. Vuol dire che avete anche voi bisogno di una di risentirlo. Che cazzo si chiama? Oh, non lo so io. Il cosa acustico, la l'amplifone. Ah, l'amplifone. Mi sono rovinato la parlantina da teatro. Vabbè, gli Hocus Pocus, sono e non, vedo di più, cioè, conoscete, vado. On and on, fais ça pour les kiffeurs de son et les accros breakbeat. Le son qui claque et qui t'accroche, recti. On a beau crédit, faut serrer la ceinture que le disque s'épuise. Et donner ça pour que les DJ puissent péter le son que le voisin crunch. Yeah. Péter les watts que le voisin crunch. Yeah. Guitare, que ça le soigne, son est fait pour passer les nerfs. Fait pour casser les verres. Fait pour tomber la chemise, même si c'est l'hiver. Parce qu'on t'a fait dur sur 7 sur ce que. Et avec un chupé notre 7 tourne sur 7. Y'a aussi si tout si des DJ toujours chaud pour la battle. Des accros du vinyle qui font armement dans la bagatelle. On and on. C'est que commencement, on en est qu'au lancement. Du label pourtant tu dis putain je connais ce nom. 2-0 SY, j'ai déjà entendu ce type. Et t'en auras pour ton argent, y'a même un bonus clip. On and on and on and on. C'est ni stress ni paillette, ni star ni vibe, ni stress ni carrière prévue à l'avance. Yeah, on y va au jour le jour. Et c'est même le taf à l'usine. Et si on fait naître notre son, après une taf t'hallucine, un homme m'a les cernes. Les joues creusées et ta colère, junkie. Accroît notre son et pas celui trop net, jerky. Non, on fait pas de son clean et aseptisé. Si je quitte des Timbaland, c'est que j'ai assez disé. Hey, dis-moi stop avant que je me mette au two-step. Si je commate alors, mets-moi vite une mixtape. Un truc fat, pas du son dance floor. Un truc fat, et puis annonce l'heure. Boy, on fait ça pour le kiff avant tout. On se fout de ce qui fait vendre tout en évitant les vautours. On est non, fait tout pour que les choses bougent vite. Et pour que les cons se passent, oh shit. Yeah, yeah, on and on, we go. On and on, C2C, excited. Sì, dovete sapere che nel frattempo Mars ha trovato tutte le risatine e suonini che voleva mandare in risposta a tutte le mie battute. Senti, terrificanti. Gli smartphone servono anche a questo, capito? Ed ha passato tutti gli Hocus Pocus a sentirsi questi suonini. Grazie, grazie, gentilissimo. Adesso abbiamo anche un'arma in più per riuscire a conquistare i vostri cuori. I vostri aridi cuori che non vi permettono di scriverci mai sulla pagina. Allora, niente, degli Hocus Pocus abbiamo parlato largamente, almeno altre due volte, quindi non staremo a rifarvi il pippone sugli Hocus Pocus. L'unica cosa che ci teniamo molto a dirvi è che, ragazzi, hanno deciso di fare un tour, di riunirsi e fare un bel tour, soltanto che hanno deciso di farlo in Francia e basta. Quindi beh, io no, ci sono anche una data in malissimo. Belgio, ah, beh, anche in Germania, che sicuramente in è più vicino, e Repubblica Ceca. Boh, io ho fatto sta che quando ho scoperto questa cosa, era tipo 3-4 mesi fa quando ho scoperto questa cosa qui, ho letto tutte le date, non ce n'era neanche una vicino a Los Angeles dove siamo noi, e quindi ci sono veramente rimasta malissimo. Già. E quindi troveremo comunque il modo di andarli a sentire. Sì, non c'è, in realtà poi alla fine so che non se ne farà un cazzo. No, no. Però vorrei tanto nessuno che si facesse qualcosa. Sì, vorremmo tanto andarci, perché cioè, sono oddio, bravissimi. Ragazzi, perché domani trovo 1.000 euro a terra, vado. Certo, capito. Oppure, se li trovo io, oppure invece mi compro un mixer. No, no. In realtà sono indeciso fra le due cose, sai, capito? No, però bellissimo il campionamento di Billy Joel, secondo me qua tutto, fra l'altro tutto campionato, penso sia risuonato soltanto il basso, una cosa del genere. No, che pure la melodia è pam pure quella è esatto, è soltanto picciato, sì. Molto molto bello, ci piace, ci è piaciuto un sacco e abbiamo deciso di iniziare così questa nostra puntata. Andiamo avanti? Sì, adesso vi passiamo un gruppo di cui parleremo dopo, perché adesso ve lo passo appunto. Sono gli Electric Light Orchestra, che sicuramente i buon gustai tra di voi conosceranno. Don't Bring Me Down. I non buon gustai li conosceranno senza conoscere, perché avranno sentito i pezzi e hanno detto, ah bello sto pezzo, e poi non hanno cercato di chi è. Sicuramente saranno sì, da così. Sì, sì, se cercate i primi pezzi che vi appaiono tipo su YouTube, come li conoscete. Sì, come quando guardi un film e dici, ah figo il pezzo di sto film, e poi non andate a cercare la colonna sonora, capito? Cioè, no, sì, cioè ok, cioè, capito? Cioè, bando alle ciance. Adesso passeremo Tightrope. Tightrope, si legge? Tightrope. Tightrope. Degli Electric Light degli Electric Light Orchestra, mm-hmm. Scusatemi, stoppo il nostro beat tape super jazz yo-yo. Vi facciamo sentire questo pezzo, fico, oltretutto. Dopo vi diremo chi l'ha campionato, come e perché. Benissimo. No, perché no, in realtà, però. Quindi metto in play, chiudo il microfono e vi lascio. Buoni Ilo. Come si chiama? Ilo. Cosa? Electric Light Orchestra. Ah, mi scusa. Il fatto che sta salendo la musica dentro il lungo. Bellissima, è bellissima. Adesso stacco i microfoni, quando meno ve lo aspetto. This is the days you're gonna win. This is the days you're gonna lose. think I do for you. You're losing all the time, you never win. Bellissimi, io ho avuto tutto un periodo della mia vita in cui ascoltavo praticamente soltanto rock, cioè abbiamo avuto tutti, dai, un periodo in cui abbiamo ascoltato soltanto rock anni 70, 60, 70, 80, quegli anni lì, e devo dire che gli Elo appunto erano molto importanti in quella fase, erano molto importanti, risentirli è sempre bello. Io ci tenevo anche a fare una puntata dove passavamo anche un po' di musica, perché alla fine è da lì che nasce anche tutto l'hip hop che vi passiamo, quindi è bello anche fare un po' di retroscena, ecco. Ai ai ai, raga, ho sete. È un problema. Fa caldo, ho sete, faccio Santa Peppa, non c'ho niente da bere, neanche l'acqua. Santa Peppa. Bravo. Aspetta che mi sembra un po' invasiva la musica, non so per quale motivo, non so capire cosa devo abbassare, se non mi torna. Ok, no, devo andare. Ma così dovrebbe andare bene, no? Mi sentite? C'è qualcuno? C'è qualcuno che mi sente? Tirate un colpo. Per favore. Allora, gli Electric Light Orchestra, ragazzi, un gruppone assurdo, con una formazione che è cambiata diverse volte negli anni, soprattutto, ma ve la dico dopo la formazione, che se no mi perdo. Niente, è nata nel 69 dalla big band dei The Move, frontata. Nel senso, ci ha battuto la fronte. Fondata da Jeff Lynne e da Roy Wood, che se non li conoscete andate a conoscere, dovrebbero essere al bar giù in strada, se volete bere una birra con loro. Questo gruppo ha avuto tantissime influenze negli anni, ha influenzato tantissimo a sua volta tanti altri gruppi, hanno fatto roba, raga, io vi dico la verità, ho scoperto sto gruppo per sbaglio. Cioè io sì, capito, conosco tanta musica. Questo gruppo l'ho scoperto abbastanza per sbaglio. Fu diversi anni fa, quando appunto in realtà stavo cercando il sample del pezzo che metteremo dopo. non è vero, capito? Ognuno ha la sua storia. Io esatto. Perché ero una mezza metallara fottata di rock e metal. I gruppi rock che conoscevo da, cioè i gruppi rock e metal che conoscevo da piccolo erano i System, vabbè, i Rammstein, certo, i Metallica, i Pantera. Quindi sei già sugli anni '80 di più. Vabbè, da più sugli '80. Mia sorella. Poi conoscevo. C'era, vabbè, poi c'era Nirvana, ma non è esattamente un gruppo rock metal. Però conoscevo. Praticamente un po' d'anni fa cercavo il sample di questo pezzo. Gira e rigira su internet. Alla fine l'ho trovato. Ho sentito, ho fatto: oh mio dio! Ma un pezzone! Oh mio dio, ma un pezzone! Ho scaricato il disco, che in questo caso è New World Record. Se volete saperlo. Ho scaricato il disco, ho detto: ma chissà se c'è qualche altro pezzo che si può campionare nel disco. E no. In questo disco soltanto sto pezzo per essere campionato. E hanno campionato loro. Non vi dico chi sono loro, ve lo dico dopo, così vi sale un po' di brio nel frattempo, un po' di ansia, un po' di fatos, un po' di qualcosa. Torniamo al gruppo. Bla bla bla bla. Nel 79, quando uscì il loro album Discovery, ebbero un successo abnorme e straordinario. Entrarono in classifica. Entrano in tutte le classifiche praticamente. Un disco, più disco music in realtà che altro, perché sì, sono un gruppo rock, ma hanno fatto pezzi disco, con influenze disco. Hanno fatto pezzi come questo, con tanta orchestra. Sì, sono proprio un'orchestra. C'è un terzetto d'archi nel gruppo, ragazzi. C'hanno veramente di tutto ed è pazzesco, almeno secondo me, come riescano a coordinarsi tutti. Sì, ma poi capito, sai che bello? Facciamo un disco rock, mettiamoci un po' di disco, ma mettiamoci tre violini, bello, facciamo così. Parte con orchestra, tipo Batman, credo, tipo quando entra il Cavaliere Oscuro, e poi parte un pezzo che sembrano i Beatles, che tu dici, wow, ma che... Sì, no, geniali, veramente credo, geniali, cioè... Sottovalutati anche loro secondo me dal pubblico, dalle masse, perché quando la musica è bella e va ascoltata, secondo me non importa chi la fa. Non esatto. È vero che non importa del tutto, però... Vabbè, insomma... no, però, capito, cioè, se ti piace la musica, ti piace, capito? Poi sì, sei il cantante di un gruppo esatto. E non è un pazzo assassino, però se suona bene, suona bene. Che vuoi dire? Suona bene. Mi dispiace che ha assassinato gente, però mi piacciono i dischi, me li compro, capito? Molto ora, bene. Aspetta, la formazione del gruppo. Oh, finale. Sì, ecco, allora, questa cosa interessante. Voce, chitarra, ritmica, abbiamo Jeff Lynne. Già il nome è una storia. Sì, non posso mettere gli applausi, capito, adesso, sono impegnato. Chitarra elettrica. Milton McDonald, Mike Stephens, chitarra elettrica, Ian Hornall, chitarra elettrica, Lee Pomeroy, basso elettrico, Marcus Byrne, tastiera, Bernie Smith, tastiera, ci Donovan stai due giorni, Hepburn, me batteria, ho finito. Sto scherzando. Però vedi, hanno tre chitarre elettriche. Però qua, sai che non ho trovato i nomi di chi suonava i violini. Ma perché probabilmente cambiavano a indipendenza dalla formazione. Questa è l'ultima formazione, questa qua, infatti. Questo disco, in formazione, già aveva un po' di gente morta, raga, mi dispiace. hanno anche loro una certa età. Purtroppo, altro non posso dire. Dai, facciamo sentire il campione, il sample che è stato preso. Allora, ragazzi, adesso vi passiamo un pezzone. Cioè, raga, adesso legatevi alla sedia prima di cadere per sbaglio quando parte il pezzo. Il sample l'ho sentito al volo, dopo che ho sentito il pezzo originale riconoscete al volo, capito, dove è stato tagliato. È impossibile non riconoscerlo. Vorrei quasi non dirvi chi sono, però ve lo dico. Sono gli Army of the Pharaohs. Dio, capito? Cioè, porca troia. Sono gli Army of the Pharaohs e questo è Battle Cry, preso dal primo disco degli Army, The Torture Papers. Ve la passiamo. Questo è riconoscibilissimo, si sente subito dall'intro. In questo pezzo sentirete rappare un sacco di gente, lo dico. Cioè, proprio tanta gente. Quindi, ma ve la diciamo dopo. Ve la diciamo dopo, buon ascolto. Grazie, grazie. Dovevo usarli in qualche modo, dovevo usarli. Sì, ciao, andiamo. Yeah, motherfuckers. We're back. Pharaoh click, motherfucker. Yeah. That's Stevie King Song. Apathy. Self-titled. Come on. Out of space. 7-L-E-S. Trump on the IV. Not the Roman numeral four, but the IV that leads to the funeral floor. Wax gets melted, breaks bones, fractures, pelvic feeds through space and cracks glass astronaut helmets. Face it, motherfucker, I could pay to get rid of you. I got more heads in the hood than pagan rituals. A new tyrannical force for you to fear. Known to kill and keep human ears as souvenirs. A shapeshifter face, let a paper get a taping sister. Raping sister, making sister, take it in the face. And if you're facing us, block off a 30 block radius. I throw more blows than boxing Dr. Octavius. Ever since we made some noise, I learned people love a winner. We the quality of deepest rims. Y'all the husband of tough sinners. Break bread with Jesus at dinner. Protected by your heavenly force. Fuck a minister, niggas know better. No one's letter is better than mine. Every time I rhyme is metal, the terror level is high. Plus I testify, it's best you die. Then to find the truth deep down in a mountain of lies. Downsize, I'm ousting you guys deep in the dirt. Clocking in and out of rap, hell, y'all fiending for work. When I'm breathing, yo, it's treason what the semen is worth. Not believing, make me steam and make you me in the earth. Hey, yo, it's my world, and I won't stop. And if you stand in my way, you bound to get popped. In the land where you lay in fade from straight shots. I demand that you pay and stray from strange blocks. I'm the man that you pray, don't spray the flames hot. I could tan in the blaze for days and stain cops. I astound in the maze, y'all praise the same God. I'ma pound out your brain and scrape the graveyard. Have you shout out in pain, y'all say y'all brave heart. I'ma box up your frame and play the same card. And I'm out for fame, space bars and quasars. Pharaohs lock the game, no shame, we hate y'all. Yeah, raw motherfucking rap. Hardcore shit, 94 shit. Shoot the fucking place up. Yeah. AOTP, blast through your army fatigue. Damage your team, the competition done it with ease. Gun in my sleeve, cause nowadays homicide is my steed. Collecting my cream, I'm living your dream and peeping your scheme. Put you on lean for right hooks, pausing your jokes. Fake crooks need to hit them books. Learn the rules of the game, 2 to your brain, 3 to your frame. Incredible pain, you getting drenched in that November rain. We the opposite of that whack shit. Trash man, the clap rap bit, you die tragic. 5-6, professional assassin. Rocking these mics and repping my fan with passion. Remember it's cute to me, you bastard. Tell your man and your parents, we be demanding that grand and apparent. At the minimum, I'll venom damage your lyrics. We be like Manny Ramirez, compatible with the radical. Magical and emphatical, I'ma battle till I shatter your clavicle. Call me admiral, raising the temp of the room. I'm the emperor, remember I never surrender. By this member for tunes, your petty men are buffoons. We send them to the dune, attack them, my venom enters their wounds. I mentally bloom, make zoom tunes with dope lyrics. Tupac, alive and well, Big L, the devil's son, rise from hell with dope lyrics. Livery red, AOTP, these stuck rappers hit the courtesy deck. Courtesy of the streets, make it a microphone, Middle East. My specialty on a bomber, enveloping my lyric sheets. Knock turbans off the sheets, used to pipe bomb downtown Israeli boutiques. Full of dead toys with their dreams no long in arm's reach. That's what I call dealing with calm speech. When I alarm your peace, inscribed in a peasant's palm is a blessed song. If you drawing your weapons wrong, then ain't no stepping on. My 45 is my weapon. My culture's a holster with 7-inch slugs is kept in. Squarely I step in, turning my trips in blue Stetson. God is my essence, so you can check these rhymes for reference. Adapt to any preference, pussy. Yeah, baby. Yeah. Kings are the motherfucking underground. Y'all motherfuckers don't want it with us. It's that raw shit. I make evil Knievel music, I come through stunning. Every verse is the same, just flipped a little sign, sign. Baby, I'm crazy, a crazy baby, a sick infant. Born with intent to spit slick sentences with sick penmanship. Shoot at your Chicago fitted and knock your socks off. Aimed at your door but hit your head, shot your locks off. I heard you was afraid to say my name on your record. Cause you was afraid I'd put your motherfucking frame on a stretcher. I can't change laws, son, that's a government issue. But I'll break laws with a gun, it's a government issue. It's the army, we got power in numbers. And that's 9s, 45s, 357s, and M500s. Some people say I'm superior when I shit it. Vivid visionary spit, vocabulary ridiculous. I am a tyrant, I'm violent by design. I silence the scientific with every line in a rhyme. Mozart is street rap, breaking the barrier. Space Harrier, filled with 40s and pit terriers. Ready to mangle anybody cross the line. I saw the sign and ran with the army, lost some time. Ready for war, but won't rock no dick trees. I rock mics, you think it's 160 degrees. We stomp crews, batter and bruise clicks. Kill bitches and stab you tricks with yeah. Loose lips. I'm slightly disturbed, Pazienza is nice with the words. That's the reason that I fly like the life of a bird. I don't care if you dead, let God have you. Cause I'ma stay rugged and raw like Marv Hagler. That's something you don't know about, you small rapper. Nice with the left, nice with the right, the jaw tapper. A law backer, murder every track that I'm on. You just spit a fucking verse, whack, then you gone. Fuck fame, I studied the fame closely. They build you up, then you get rocked like Shane Mosley. It's pain, homie, and your blood in my pen. It's the army of the pharaohs, and we flooded with gems. Yeah, the torture motherfucking papers. Dead Sea Scrolls out here. Y'all don't want it. It's fucking raw rap. Ayo, KP. Ok, ok, appena finito il pezzo degli Army of the Pharaohs. E ora un momento che devo mettere il beat di sotto. Di su, ecco. Pronti a parlare degli Army of the Pharaohs. Allora, c'era una volta un gruppo. Aspetta che il microfono. Un gruppo di 5 MCs. C'erano Vinny Paz, Chief Kamachi, 7L ed Esoteric, che sono due persone, Virtuoso e Bahamandia, che non tipo. So chi, non ho proprio idea di chi sia. Un tipo. Insieme a questi c'era anche Stupid Edge da Mind, ovviamente, perché i beat non è che uscivano magicamente da un cilindro. Quindi avevamo 5 MC e due produttori, che erano 7L e Stup. Cosa succede? Fanno due pezzi nel 2000, li fanno uscire nel disco di Jedi Mind, e poi nel 2005 dicono vabbè, riuniamoci, bella, facciamo un super discone. E insieme a loro si unirono gli Outer Space, Apathy, Self-Titled, Rift the Lost Coast, Death Devious, Fats One e King Sights, e se ne andarono Virtuoso e Bahamandia. Ora, dopo tutti questi nomi, potremmo benissimo dire vabbè, cioè, ciao, è il gruppo più bello del mondo, smettiamola di fare hip hop, perché tanto noi siamo fiezzi in confronto. E niente, cioè, è uscito il disco, come cacchiaro la sigla, The Torture Papers, dove c'era anche Shuko tra i produttori. Di Shuko ne abbiamo parlato, forse, non so, non ricordo, io ne ho parlato un sacco da solo, però. E il pezzo che abbiamo passato, che si chiama Battle Cry, è stato uno dei due singoli usciti da questo disco. L'altro era Tear It Down, dove hanno fatto il video. E invece questo pezzo è diventato, diciamo, famoso perché era praticamente una posse catta dove rappavano 9 su 10. E quello che non rappava, non so chi era, perché adesso non mi è ben chiaro chi rappava in questo pezzo, capito? Poi dopo, vabbè, il gruppo si è ricambiato, è successo un sacco di robe, hanno fatto uscire altri 3 dischi, ce n'è uno in cantiere, progetti solisti, ma questo ne parliamo quando riparliamo degli Arnold Varos, perché adesso dobbiamo andare su un altro pezzo. Oltre. Sì, andiamo oltre, andiamo su un altro pezzo, che è un altro sample di un pezzo bellissimo. Sì. Ho detto pezzo un sacco di volte. E vuoi annunciare questo pezzo? Ma sì, torniamo in noi. Sì, questo caldo mi sta distruggendo veramente il cervello, le cervella. E quindi sto malissimo. Ma comunque cercherò di fare qualcosa di sensato per voi, mio pubblico adorato, numerosissimo. Allora, dovete sapere, oltretutto, che bere birra calda è bellissimo. Mamma mia. Wow. Allora. Di Maone. Allora, dicevamo, passiamo a questo pezzo di cui in realtà potreste riconoscere abbastanza presto il sample, visto che parliamo di un pezzo famoso. Ma intanto vi facciamo sentire questo pezzo non hip hop ancora, per continuare su questa onda dei campioni e dei sample che ci è piaciuta tanto. E quindi il pezzo che passiamo si intitola We Are One ed è di Alicia Bridges. E niente, godetevi questo pezzo e cercate di spremere i vostri cervelli, nonostante il caldo, come sto facendo anch'io, per riuscire a capire quale sample è stato riusato di questo brano per quale pezzo. Accettiamo messaggi da casa per che sì, dai, scriveteci, siamo qui online sulla pagina FB. Se qualcuno lo indovina, ce lo dica. Sarebbe bello, però nessuno sarebbe ci bello. Caga, capito? Oh, guarda, vabbè. Vado in play. Andiamo. Wowone. Vai. We Are One, Alicia Bridges. C'è un sacco di silenzio inizio del pezzo. Vabbè, non si sa mai. No, guarda, c'è un sacco di silenzio. Sì. Ok. Eccola. Comincia. Questo è il vinilino messo su. E chiudo i microfoni. No, non c'erano questi applausi nel pezzo. Comunque, detto questo, sono per noi gli applausi. Sono per noi e siamo molto lieti di riceverne. Allora, Alicia Bridges, controlla un po' il mio volume perché delle volte mi sento un po' sparare, ma no, darò sì, noia a voi. Sei ok, giusta. Ok, sono giusta. Oppure in realtà sto morendo io e non vedo bene. Ma vabbè, sembra... vabbè. Non importa, stavamo dicendo, la nostra Alicia Bridges nasce nel 53 e diventa una cantautrice statunitense, perché ovviamente è statunitense, quindi non poteva essere altrimenti. Innanzitutto facendo uscire questo, che sarà proprio il suo primo disco, quello che... scusate, mi sta abbandonando la voce. questo disco che vi abbiamo passato, di cui vi abbiamo passato la traccia We Are One, che sarà proprio il disco dal nome Alicia Bridges, che lei farà uscire nel 78 e sarà il suo primo disco. Viene ricordata principalmente lei per il suo successo con la hit definita internazionale che è I Love the Nightlife, fra parentesi, cosa che so che non adori che io dica in radio, Disco Round. Sì, io dico anche la punteggiatura, purtroppo quando annuncio i brani. Gentile pubblico, addio. E insomma, tra l'altro questa sua hit internazionale è anche stata nominata per i Grammy, insomma, ebbe un sacco di successo, ma per il resto non abbiamo sentito parlare troppo di Alicia Bridges, se non che un simpaticissimo Giovanni Pellino, che ormai aveva deciso di abbandonare la sua, o quasi abbandonare la sua carriera nella sfera dell'hip hop, probabilmente girando per i mercatini o per comunque i negozi di dischi, aveva deciso di comprare questo meraviglioso disco da questa copertina così accattivante, chiamatosi Alicia Bridges, e sentendo questa traccia decide di campionarne una parte che voi riconoscerete subito oppure avete già riconosciuto e inserirla in un beat tape che, di cui però non sa a un certo punto come lavorarci, perché lui non si sente più di fare tutto quello che aveva fatto finora. Giovanni Pellino, ovviamente io l'ho chiamato così, ma spero che voi abbiate imparato dalle altre puntate il fatto che in realtà è Neffa il personaggio di cui stiamo parlando. È Neffa, oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma quindi ha un nome vero? Stavo dicendo... No, è che poi quando mi fa caldo esco dai discorsi. No, però stavo dicendo appunto, non sa cosa farne, ma scopre che sulla scena sta uscendo piano piano e sta acquistando sempre più ascolti un giovane rapper che spacca di brutto, che effettivamente c'ha dei metodi, delle metriche, delle parole, come si dice, proprio delle sensazioni, trasmette delle cose che sono sue, fanno parte del suo personaggio. E questo personaggio si chiamava Fabrizio Tarducci. Fabrizio Tarducci accetta di ricevere questo meraviglioso beat tape da Giovanni Pellino. Stiamo parlando di Fabri Fibra e Neffa, cioè non stiamo parlando di Tizio e Caio, anche perché sennò dovremmo nominare anche Sempronio, e Sempronio non c'è in questo, ci sono soltanto... Non è colpa sua, è colpa del caldo, cioè non... So che io dovrei intervenire più spesso, però sapete, dai, cioè ormai vi siete abituati alle cose intelligenti che dico in radio. Vabbè, insomma, e insomma lui accetta di prendere questo. Ci abbiamo fatto. Tiriamo le fila. Fabri Fibra accetta questo beat tape e tira fuori il suo primo disco solista da questo beat tape, che sarà proprio Turbe Giovanili, un disco che abbiamo sentito tutti e che ha fatto la colonna sonora per tutti noi almeno un periodo della nostra vita, voglio sperare. Disco bellissimo, disco di debutto appunto del solista Fibra. E niente, qual è la traccia che io intanto caricherei, che abbiamo scelto? Ma di... io prima volevo dire una cosa. Ah, ok. Sai, in realtà avevo letto una cosa molto divertente. Eccoci, che bello quando Marzo decide di darci delle pillole di gossip. Vabbè, soprattutto se le dice è anche meglio. Sì, infatti sì. No, ma in realtà no, praticamente c'è, cioè, tutto questo discorso che hai fatto su Fibra NF. Voglio annunciare ai nostri cari radioascoltatori che non è vero niente. No, non è vero. Che in realtà Fibra ha trovato un disco dentro un cesto della spazzatura e ha rubato i beat. No, in realtà no, praticamente, cioè, spero abbiate tutti visto Numero Zero. Sì, esatto. Spero l'abbiate visto tutti. In Numero Zero si parla chiaramente di questa cosa. Finalmente potete vedere la faccia di Neffa che pronuncia Neffa queste parole. Neffa che quando parla in una maniera totalmente diversa da quando rappa. Io sono rimasta... Sì, che dice... No, i beat pronti. Però ho smesso di rappare, faccio, chiamo Fibra, faccio ciao, sono Neffa. Poi c'è Fabri Fibra che fa... Un giorno mi squilla il telefono... Rispondo, fa: ciao Fibra, sono Neffa, vuoi dei beat? E io ho detto sì, cazzo, sì. Cioè, capito, Fabri Fibra parla così, Fabri Fibra lentamente, con dei toni di voce strani, e fa proprio: un giorno mi squilla il telefono, io rispondo, Ed era Neffa. Quante volte te lo sei visto per saperlo? Ma perché è bellissimo che c'è la faccia, certo, di Fibra in quel momento. Che tu ti immagini un giovane Fibra quando, sì, ancora aveva i capelli. Che probabilmente quando, si ascoltava Neffa diritto. Quando in realtà, se vedi la copertina originale di Turbe Giovanili, sembra, sì, giovanotti da giovane. Sì, è vero, c'è un sacco di capelli. E tu ti immagini questo faccino qua stupido, capito, che si sta facendo un sacco di bombe, lo chiamano al telefono ed è Neffa. E lui magari inizialmente pensava che era uno scherzo. Sì, esatto. Sì, vabbè, se potevo Neffa mi sarebbe... cioè, capito, cioè, immagino, capito, una scenetta del genere, capito, perché cazzeggiava col fratello. Ed è proprio da queste scene divertenti e casuali che nascono capolavori come il Turbe Giovanili. Che meno male che Fabri Fibra ha detto sì, dai, dammi quei beat. Mamma mia, se no io non avrei saputo superare probabilmente la mia adolescenza. Se Neffa avesse cacciato il disco e avesse rappato su sti beat, cioè il beat di Nuovi Stili d'Insonnia è pazzesco. Se Neffa ci avesse rappato sarebbe uscita una cosa pazzesca. Ma è venuto bene lo stesso, io non disprezzo questa cosa, no, anzi, figurati, ci sono molto affezionata. Stiamo parlando infatti di Se non dai il meglio, era proprio questo. Stiamo il pezzo parlando che infatti volevo... di Se non dai il meglio. Hai fatto così. Ok. Me lo accollo. Di Se non dai il meglio, che è il titolo del pezzo dal Turbe Giovanili che è stato... Esatto, di cui abbiamo questo piccolo... Esatto, ve lo facciamo sentire, tanto l'avete riconosciuto, eccolo. Anche un pochino di più, tanto è divertente così. No, no, beh, poi vediamo se riusciamo a parlare rapidamente. Lo sentite? Quindi. Eccolo qua. Era questo il campione. Aspetta, rimettiamolo. Nel caso non l'aveste sentito, bene, adesso vi lasciamo a sentire un po' di Fibra. Allora, adesso parte da qua. Ascoltate bene il pezzo, mi raccomando. Ci fidiamo di voi. Esatto, fateci sapere se vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto, non fatecelo sapere. 3, 2, 1, Fibra. Oh yeah. Le storie bene o male sono uguali per tutti. Sono le stesse storie che si vivono tutti i giorni. E che tu sei un maschietto o che tu sei una femminuccia, se non del meglio non ti torna al meglio. E se non cambi canzone e neanche trasmissione, attenzione, attenzione, attenzione ai depressi, a chi ha più interessi, a chi inventi racconti e ai racconti stessi. Distinzione tra i sessi, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione, attenzione ai depressi, a chi ha più interessi, a chi inventi racconti e ai racconti stessi. Distinzione tra i sessi, meglio fare attenzione, anche se sento dolore senza una protezione, senza una protezione. Con quanta gente stai e quanti giri ti fai, finché non cambi hi-fi, finché non cambi canzone, non cambi stazione e neanche trasmissione. Attenzione, attenzione, attenzione ai depressi, a chi ha più interessi, a chi inventi racconti e ai racconti stessi. Distinzione tra i sessi, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione. Che ne diresti di farti quattro passi nei pressi degli eccessi? Attenzione, basta saperne gli accessi. Dimmi che vuoi cambiare, finché interessi. Vedi che puoi cambiare tutto tranne noi stessi. Stessi discorsi alla stessa ora. Ora che neanche sai in casa tua chi ci vorresti. Ci vorresti. Non te ne accorgi, non avrai tutti i torti. Ma non capiscono il modo in cui ti comporti. Io da domani, tu da domani. Promesso che poi alla fine il fine è sempre lo stesso. A volte il mondo gira con più di un verso, a volte sembra che invece giri al senso inverso. Verso chi ti sei direzionata, spaventi quando capisci a cosa sei intenzionata. Vuoi che sia il continuo di un buon risveglio, ma da chi pensi che torna se non dai meglio? Se non dai meglio non ti torna al meglio, ma a volte meglio può mandarci in crisi. Se non dai meglio non ti torna al meglio, ma di sti tempi meglio chi stop easy. Se non dai meglio non ti torna al meglio, ma a volte il meglio può mandarci in crisi. Se non dai meglio non ti torna al meglio. Fa bene lasciarsi, lasciarsi. Fa bene lasciarsi se prima contiamo i danni, ma prima di addormentarti i sogni non te li programmi. Chiaro, chiaro che poi è inutile dirsi banalità, ma noi dimmi di noi che ci cambierà in questi anni. Ci cambieranno questi anni. A volte l'abitudine dei sorrisi, di baci in visi diversi, immersi in solitudine. Ogni lasciata è persa di chi ti ricordi il nome. Come non saremo noi a capire quando si scherza. Bene o male le storie sono uguali per tutti, no? Sono sempre le stesse storie che si vivono tutti i giorni. E se non cambi canzone e neanche trasmissione, attenzione, attenzione, attenzione ai depressi, a chi ha più interessi, a chi inventi racconti e racconti stessi. Distinzione funzione tra i sessi, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione. E chi ci parla con chi non fa attenzione? No, ni ci parli tu, non io, no, no, ni ci pensi tu, non io, ci parli tu, no, ni ci pensi tu, non io, no, no, ni ci pensi tu, non io, tu, non io, non io, no, non io, ci pensi tu, non io, tu, non io. In queste mie realizzazioni perdo le combinazioni senza avere conclusioni, senza avere conclusioni. Mai più estremizzazioni fatte di combinazioni senza avere conclusioni. Conclusioni ti fai finché non cambi. Ma quanti tiri non fai? Con quanta gente stai? E quanti giri ti fai? Finché non cambi e fai. Finché non cambi canzone, non cambi stazione e neanche trasmissione. Attenzione, attenzione, attenzione. Depressi a chi ha più interessi, a chi inventi racconti e racconti stessi. Distinzione tra i sessi, meglio fare attenzione. Anche se sento il doppio senza una protezione. Senza una protezione. Con quanta gente stai? E quanti giri ti fai? Cambi canzone, cambi trasmissione, anche trasmissione, attenzione. Quanto è introspettivo il nostro Fibra in questo disco in generale. Ma quanto è figo sto beat, raga. Ma quanto poi è figo sto disco, tutto, bellissimo, bellissimo. Un disco veramente con delle massime difficili ma fondamentali. Ehi, sei dove vuoi, sei. Sei, ehi, ehi, vai dove vuoi, sei. Ci copiano, ci copiano. Sì. È uno di quei dischi che... Chi ha fatto la nostra vita sa a memoria, più o meno. Ma sì, ma mettiamoci un urlo da gorilla. Allora. Insomma, dopo questo meraviglioso Fabri Fibra dei primi tempi, ancora quasi, non ti dico acerbo perché comunque c'ha un suo perché, ma diciamo fresco, diciamo fresco, diciamo fresh. In questo caldo un po' di fresco. Vabbè, ma piace. Fibra sì. Lui può dirlo. Stiamo ascoltando Maria di Oscar Peterson giusto per dirvelo. Adesso facciamo il momento news. Esatto, facciamo prima il momento social o il momento news? Facciamoli insieme. Ok, quindi te dici uno e dico l'altro. 3, 2. Aspetta, vediamo un po'. Vediamo se abbiamo qualche suono per la sigla, diciamo. Ah, vediamo sì, Mars sta cercando la sigla. Allora, mentre te cerchi la sigla, io faccio un po' la parte social. Aspetta. Che sigla lunga, il telegiornale, bellissimo. Più che altro con Oscar Peterson sotto. Benvenuti a queste nuove news del 2019. Siamo qui, Mars e Vintro, pronti a riempirvi con tante cose che non so neanche che parole dire, mi sono perso. Allora, partiamo con il social. Va bene, allora, social, parte social. Niente, le solite cose. Se ci state ascoltando in macchina, probabilmente ci state seguendo sulle onde 13.59 AM, che sono proprio quelle di Radio Wombat, da cui trasmettiamo. Dopodiché, se invece non ci state sentendo sulle 13.59 AM, ci potete ricercare sul sito... che è wombat.noblogs.org. Inoltre potete scriverci delle mail a posta wombat@insiberia.net. aspettiamo nuove. E non solo, noi continuiamo a ribadirlo tutte le puntate, c'è una pagina Facebook della nostra trasmissione che è Sessioni Notturne, da cui aspettiamo delle vostre reazioni e delle vostre interazioni con le nostre persone e con le nostre selezioni. Adesso passo la parola al mio collega qui vicino. Sembrava più un rutto che un'altra cosa, Mars. Cioè, era uno wow, non so se si è capita questa cosa. Ma io... Sì, ma so cose strane, io non so perché c'è sta fissa. Sì, ma dobbiamo divertirci un po'. No, ma io mi diverto molto. Guarda. Ok, basta. Nuove. Allora, andiamo con le news. Ladies and gentlemen, come ogni settimana sono usciti dei dischi. Anche se... Meno, perché abbiamo fatto tutto maggio la puntata scorsa. Sì, praticamente sì, poi non è capito che posso sempre stare là, capito? Cioè, raccogli un po' dei pezzi, credo, e ve li dico, credo, poi... Sta passando un UFO nel frattempo, Inizia. Voi non lo sapete, ma se... Credo, siamo già a terra in testa. Finisce il mondo, noi possiamo dirlo. Ok. Un attimo, è un momento paura. momento paura. Ok, non è non era la morte, nessuno, non era la morte. Perfetto. Allora, partiamo con un disco uscito da poco. Nel senso che la data, mo non mi rompete con le date, tra l'altro l'ho detta, sto giro no. È uscito un disco che si chiama These Days, These Days di Diminutive Arthur. Che è un discone, raga. Cioè, un disco di quelli, sapete, quell'hip hop un po' jazz, quello un po' tranquillo. Bello. Fico. Questo alla disco uscito... Jazz Club. Ah, no, ma c'è ancora. No, non è vero. Vabbè, comunque è un bel disco, l'ho scaricato, è bello. L'ho scaricato, è un bel disco. Okay? Comprandolo. Esatto, l'ho comprato scaricandolo. L'ho scaricato con... non lo so. Poi è uscito un disco di Bunker Beats e Trademark Blood. Tutti i nomi che non conosciamo, capito? Non conoscete. Vabbè, ho se non escono ora cose che non conosciamo, sì, quando infatti, escono. Pure questo è un bel disco, tranquillo. Non so tante tracce, però è fico. Suona pure questo bello tranzo. Poi è uscito un disco, un nuovo EP dei The Good People, che non so se ne abbiamo parlato, ma ne parleremo perché sono un bel gruppo. È uscito un EP pure di poche tracce, si chiama The Summer EP, proprio per inaugurare l'estate. E questo disco, perché questo disco lo passeremo? Perché tre featuring, qui abbiamo un fantastico Termanology e un fantasticissimo Afro, che non so ancora come si dice. Termanology però... che fra l'altro ultimamente è un sacco attivo anche lui sui social. Termanology è sempre attivo. Vero, no? Pubblica una valanga di robe inutili fra l'altro. Sì, ma Termanology, sì. Capito, ho tenuto, fa sempre dischi, fa sempre pezzi, capito, lui si alza la mattina e fa, oggi facciamo un disco, bella, ok? Che fotta. Poi continuiamo, è uscito un disco di Nova, Do Not Disturb. Ve lo consiglio, è bellino. Non ve lo so spiegare in realtà, no? Cioè, ho sentito, sì, sto disco. Poi ne ho sentito un altro, non so chi è, bene, credo. Ho sentito due dischi. Provo a dire. Intanto noi ve lo diciamo, siamo sempre esatto. Aggiornati su questa cosa. Poi su roba magari un po' più famosa. Ecco, è uscito un disco, non si può dire perché è postumo. Un'altra raccolta di pezzi di Big L. Che ovviamente Big L è sempre è sempre, come si dice? Ma io non so esattamente che cosa tu vuoi dire. Che picchia, capito? È sempre sul pezzo anche se non c'è, capito? Big L si chiama Classics, questa raccolta è una bomba, ovviamente. È uscito un disco di Da God Fahim. Oh, che abbiamo passato. È uscito un disco con un tizio che si chiama Nicholas Craven. Ma raga, non lo so, oggi il caldo mi sta distruggendo. Poi di interessante in realtà no, capito? Cioè, è uscito un altro disco interessante. Rascas ha fatto uscire un altro disco, vabbè. Che palle pure lui. E poi ci mancava soltanto che Static Select avesse fatto. Sì, infatti, grazie a Dio. Poi Ossi dei TC ha fatto uscire un demo vecchio, ha fatto uscire adesso. Sai, quei rare demos mai usciti negli anni 90 che fanno uscire adesso, ecco, ne ha fatto uscire uno. Bello, capito? Ok, però, cioè, boh. E poi Shuko, altra volta ho detto, o non l'ho detto? Mi sembra di sì. Vabbè, comunque Shuko ha fatto un disco con The Breed. Shuko, regà, è forte. Cioè, pezzo di prima degli Army l'ha prodotto lui. Anche se adesso fa roba completamente diversa, però spacca comunque. E ultimo, ma non per ultimo. Cioè, per ultimo, ma non ultimo. Ultimo, ma non per importanza, forse. Madonna, mica andava lungo. Il concetto è quello. Il buon caro nostro, il nostro amicissimo, il nostro fantastico, il Bill, ha fatto uscire un beat tape. Che ora tu dici... Wow, è bello, capito? Ha fatto sono tutti i beat che conosciamo, regà. Però ha fatto uscire un beat tape. Il Bill ha fatto uscire, regà, queste Beats by Bill, lo trovate su Spotify, bella, ok. Why not? Quindi andatevi a pompare un po' di beat di Il Bill, fateci dei mixtape, fate che cazzo volete, non su Spotify, scaricate pure da là. Molto bene, adesso che abbiamo finito la sezione notizie, la sezione pubblicità, adesso sezione chiudiamo, ragazzi, è stato un piacere. Cacchio, la volete chiamare? Andiamo avanti con questa magica puntata. Qui contraddico il capo. Questo lo voglio annunciare io. Ok. Allora, ragazzi, adesso passiamo un pezzo, un altro sample. Fico. Non vi diremo di che pezzo. Adesso vi annunciamo soltanto che pezzo è. Questo pezzo si chiama Como quisiera decirte. Non so se la pronuncia è giusta perché il mio spagnolo è una merda. Chi si era? Chi si era? Chi si era? Chi si era? Chi si era a decirte? Vabbè, regà, questo pezzo è dei fantastici e fantasmagorici, sì, e sì, sconosciuti Los Angeles Negroes, che è un nome che mi fa ridere un sacco. Però è un pezzone e però anche questo sia stato scelto. È bellissimo. Il pezzo è fico, però il nome... Sì, il nome è molto simpatico per noi... Cioè, soltanto per il nome abbiamo scelto il pezzo. No, non è vero, perché è un pezzone ed è stato scampionato alla grande. E perché è Los Angeles Negroes. E vabbè, quindi vabbè, adesso sentiteveli, dai, è un po' che parliamo, passiamo un po' di musica. Sì, infatti. Vai. Como quisiera decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el tiempo sin atinar a decirte lo que a diario voy sintiendo. Por temor quizás a oírte, cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Cómo quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo. Que quiero que estés conmigo como en un final de cuentos. Cómo quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. La verità è che io ho un debole per questo genere qua, cioè ho veramente un debole fortissimo per sono questa, cioè, cioè tecnicamente si chiama ballada rockmantica, ok, il genere, ed è un genere tipico appunto sudamericano. Io appena sento un pezzo del genere mi emoziono. Dopodiché lascio la parola a chi ne sa di più, senza Marsi. Io non so un cazzo. Allora, per cominciare, va bene? Capito? Cioè, allora ragazzi, i Los Angeles Negro, che poi sono i Black Angels, cioè chiamiamoli in inglese Black Angels, sono una band di ballads cilena, una band cilena, formatasi a San Carlos nel 68. Cioè, parliamo veramente di... c'è una modernità pazzesca in questo pezzo, se ci fin qui ci siamo, ci siamo. Ok, fin qui ci siamo. Questo disco, il pezzo da cui abbiamo tratto il disco da cui abbiamo tratto questo pezzo, è il loro secondo disco, uscito nel 69, che si intitolava Volvere. Non so come si legge. E basta. Molto di più non possiamo dirgli, anche perché sono un gruppo veramente... Cioè, vi posso dire che hanno cambiato un sacco dei membri nel gruppo. Cioè, in realtà tutti i vecchi membri sono praticamente morti. 1, 2, 3, 4... 9 ex membri sono morti. Vabbè, se calcoliamo che nel 68 si scioglievano i Beatles, di cui due già sono morti, direi che... Vedi che alcuni ancora sono là, vedo mio. Mario Guterres, il chitarrista, ancora lì dal 68 a oggi. Yao. Yao. Poi c'è Jorge González alla tastiera, Jorge. 9 è morto. No, lui è morto. No, no, aspetta, sì, probabilmente. No, è vivo. No, secondo è stato fatto, è morto. No, ha fatto parte. No, no, probabilmente è morto. Secondo non so, ha fatto parte del gruppo. È ancora in circolazione. Vabbè, praticamente Mario Guterres alla chitarra. Luis Astudillo alla batteria e alle percussioni. Eddie Martinez alla voce. Orazio Medina al basso. Alejandro Muñoz alla tastiera. E Antonio Saavedra ai vocals, pure lui. Yao. Non vi leggo tutti gli altri, però sappiate che originariamente c'era una cantante. Ma in questo pezzo no. No, è nel primo disco, poi non so se è morto o se n'è andata, cioè non è ben chiaro. Oggi sono veramente... Raga, la gente muore, non ci possiamo fare un cazzo. Bene, e quindi qual è il... Dopo questo messaggio chiaro e tondo al ti mondo... Ti faccio questa domanda, qual è il pezzo che stiamo per passare? Adesso stiamo per passare in pezzone, raga. Praticamente il gruppo sono i Feel Life Saifa, che molti di voi non conoscono. E di questo siamo sicuri. Sono sicurissimo che molti di voi non li conoscono. Questo pezzo si chiama Ill Force... E basta, le altre informazioni ve le do dopo. Caricatevi perché è un pezzo bello lungo e carico. Porca e un po' come lungo. Questa canzone che vi abbiamo fatto sentire. E godetevelo perché se a me piace tanto e anche a voi. Della mia e della tua fantasia. Anche a voi piace tanto. Anche a voi. Esatto, anche a voi. Anche a voi vi piacerà questo pezzo. Sacco. Ok, un po' come i Los Angeles Negros. Deve piacervi. I Black Angels. Si chiamano Black Angels. Io non credo che loro... avrebbero apprezzato di essere chiamati così. Beh, ho capito, ma manco dire Los Angeles Negros è tanto carino. Ma scusa, America, sono magari due significati diversi. È che la parola Negros è la parola Negros, voglio dire. Sì, ma Los Angeles non è Angels. Sì, gli angeli, è Los vero, Angeles. È vero, è vero. Ma che credi... Sì, questi qua vengono dal Cile e si chiamano i negri di Los Angeles. Questa giungla mi distrugge. Ma chiudo il microfono, ciao. Check it out, y'all. Yeah, yeah. And I say run about now, get ready to get down to the fucking sound of the man they call. Life the raw dread, as natural as ganja tea and cornbread. Rappers could not run me even if they born with four legs. Known for tacking bullets, automatic like a Rastakov. My brain maintains more strategies than Gary Kasparov. My thesis is artistically carved like chess pieces. Overpowering the mind like the power of telekinesis. My deepness goes way beyond the depth of an oasis. Mother nature raises as a great man claiming my greatness. Don't take this for a sweet boy rapper talking for ladies. Or a thug rhymer boasting about Lexus and the Mercedes. This is universal hip-hop encompassing many topics. Philosophic lyrics that be exposed. No false prophets, we're more hypnotic than swinging pendulums. When we rock it, plus we ride the rhythm smooth like a skateboard with the kryptonics. More than supersonic, we never crash like Concord. Feel like Cypher bring the realness, we don't front like all the frauds. Win vocal cord awards when we're swinging our verbal swords. Traveling towards the brain with the speed of a turbo course. You be the ill force, we feel like Cypher of course. Make your body spasm like orgasms during intercourse. We flex deep with the technique to defeat the fist of the north. We dwarf your minuscule rhymes, the divine is the power source. We smoke herb, speak the spoken words, never spoke before. For life don't represent the rich, we represent the broken poor. Spreading flows galore, leave a disco with a broken floor. Cause the crowds, they jump and stomp around until their feet get sore. Cause for life get more, once more, it's the underground. Independent, hardcore, metaphor, soldiers of war. The top draw, went on tour and tore it down with our music. From the Czech Republic, Belgium, Germany, France, Holland to Zurich. You can't refuse it, for life music, evil's therapeutic. We selling units, vocally for life, stay and undisputed. Let me tell you what my sound about, cause we representing the down and outs. We take the riches to rap a sound and we drown them out. These ragamuffins are something like an experiment. Speaking for people living in ghetto estates and tenements. This ghetto spokesman's killing you with these jokes and flipping this big delivery like the strongest of postmans. We're going global with the hottest volcano vocals. Spitting lava that's raising the temperature in Chernobyl. With more bars than a penitentiary, we've been keeping it how it's meant to be. Spitting lyrics for the rest of the century and past that. Cause hip hop's exactly just where our heart's at. My cypher's paying his dues and never taking no fast track. People relate to the matters we speak upon and feel it inside their souls without even turning the speakers on. Common as muck and I never giving no fuck about no fashion. We spit this lyrical shit just for the passion. When I wreck, I'm reflecting the thoughts of the poor people. Certain rappers' recitals are riddled with pure evil. And more people understand that my jaw's lethal. For life, cypher of snipers that fight the forces of evil. Like Starbuck, listen, yo, my cypher can leave you starstruck. Stinging you with these lyrics just fatter than Jimmy Tarbuck. So we're hoping it's this you're feeling. We're dealing the sword of legal synthetics that's got your kiss in the ceiling. Revealing more knowledge than college and universities. We teach shit that we gain from the school of verbal diversities. We flip verbal absurdities and causing more than emergencies. These rap professionals even smile in the face of adversity. Cause me and my ninja bars preach your skin faster than ninja stars. And blast your amplifier and stereo systems in their cars. Millennium metaphors saw our cypher's arrival. We worked harder than most to ensure our cypher's survival. Yo, for life cypher. Amazing ride riders. We've been around for a while. Yo, for life cypher. I got the special effects pen, creating my special effects then. The special effects men who produce invisible effects for the film, the X-Men. Mics are blessed then, your brains are test them. No time to rest them, stress them to the max. In fact, at the same time, I'll interest them. Educate and entertain is the main aim of the cypher. Inject hip-hop into the main veins of a crowd and get them hyper. Forget cobras and vipers and saber-tooth tigers. No one be safe when these snipers from the cypher spit lyrics that's righteous. Conscious rhymers, plus a tidy spiritual vipers. Vocal cord exercises, bad and evil force neutralizers. For life, cypher, more hungry than hunger strike lifers. Hundreds of lyrics in our binders. We're expert rhyme designers, all your fake rhymers. You dread the cypher like you dreading death. Life on site, rock the mic, make your blackout like we read the meth. You're powerless to stop these threats, 24-7 rocking heads. Wherever feel like cypher tread, the love of hip-hop's what we spread. We fire verbals like they're lead, and knuckleheads who just don't know. It's the Napa and the Philly and the life who rock the show. We're a force in hip-hop, producing the rawest hip-hop. We rap for the cause of hip-hop, and we talk endorsing hip-hop. Enforcing the laws of hip-hop, for life the nation's favorite song. Bringing up blazing tongues and causing more fire than cable time. My songs will last long, and I shatter rappers like glass bombs. My styles are rigid and plus it's stretching like Armstrong. My cypher's packing the largest linguistic testicles. When it comes to this shit, we're essential just like the festival. Extraterrestrials, it's out of a different star system. Even Archimedes can't batch with me and my spa's wisdom. For life, cypher be darker than Night Rider. We spit these lyrical lines that be sharper than Harp Cider. To Mike's, I'm a provider. I take flight like a glider. I cause fright like a spider with acid for its saliva. We get deeper than divers. We don't need no survivors. For life, cypher was so tight, there's not a force could divide us. I rise, be the decider in any type of a tie break. Our mind states are as bright as the stars and they're making it rising. The spectacular rap tracker is brandishing his fangs. And we hang verbalist gangs with this execution the slang. We never be fraudulent, we spit the raw facts to the audience. And we're harder than army sergeants and we won't stand for subordinates. We pinpoint your coordinates and blast you harder than bomb jack. And blast you back to the stereo just to rewind the song back. My galvanized rhymes are 1,000 times stronger than girders. And we hit people with bars and we're causing verbalist murders. The traumatizers, the more carbonated than Tizer. These verbalizers, the rappers from Germany shouting Scheiser. The hypnotizer, the wiser with rhymes. As tight as a miser. For life, cypher's the force of the whack rapper despises. Yo, for life, cypher. Amazing rhyme riders. We've been around for a while. While. No, I'm saying? For life, cypher. Force. Oppositional forces get the eardrums flat. Che pezzo lungo, io. Sì, un pezzo lungo. Senti lì, sì. C'è anche la voce alla fine. Senti, i nostri Los Angeles Negros. Sì, raga, che schifo la birra calda. Ma questo pezzo era una bomba. Cioè, sono 6 e passa minuti di puro yeah. No, bellissimo, bravissimi. Pezzone, misconosciuti, peccato. È vero. Peccato, peccato, ve li faremo sentire più spesso allora. Perché questo beat è bassissimo? Andiamo un po' avanti. Ok, due pillole sui Feel Life Cypher. E poi vi lasciamo. Feel Life Cypher, yow. Allora, i Feel Life Cypher sono un gruppo inglese. E vi giuro che io non l'avrei mai detto perché suonano così americani. Cioè, non c'hanno quella rappata inglese chiusa alla Dirty Die con la Flip Tricks. C'hanno più aperta. Composti da due MC e un DJ. I due MC sono Si Philly e Life MC. Quindi da qui anche il nome, Si Philly, Life. E il DJ si chiamava Nappa. Che invece non c'entra proprio niente. Che invece è praticamente il nome giapponese di... No, in realtà è proprio Nappa di Dragon Ball. Magari è la Nappa nel senso il naso. Ma no, Nappa è quel pelato che è sceso con Vegeta su Dragon Ball. Vabbè, abbiamo due visioni diverse della realtà. No, non è la realtà, è la vita, è Dragon Ball, you know? You know, baby? You know Dragon Ball? E io. Allora, e i Fi Life, nulla, regà, cioè, sono formati praticamente nel 96, hanno iniziato a fare live, hanno iniziato ad avere successo nel circuito underground inglese. Poi in un talent nel 2000, un talent che si chiamava, non so, tipo Talent 2000 proprio, la competizione fra MC, arrivarono in finale. E basta, ragazzi, cioè non c'ho molto altro da dirvi in realtà. L'unica cosa che posso dirvi è che il pezzo Clint Eastwood dei Gorillaz, che conoscete tutti, quello che è diventato strafamoso oltretutto, stranamente, probabilmente soltanto per quello, con certe persone, quando era nella pubblicità della banca Conto Arancio. È vero, happy, ragazzi. Cioè, avete capito? Cioè, è diventato famoso anche per quello. Anche per quello, sì. Purtroppo questo capitalismo ci distrugge un po' come questa giungla. Esatto. Praticamente, in una delle tante versioni remixate di Clint Eastwood, c'era una versione dove rappavano i Fi Life Cypher. Inizialmente questo pezzo doveva uscire anni fa, anni or sono, quando, cioè, praticamente doveva uscire come quello originale, doveva uscire. Solo che poi i Gorillaz decisero di far uscire quello con Del Da Funk Homo Sapiens, che è quella che conosciamo tutti. Poi fecero uscire questa versione soltanto più tardi in una raccolta di pezzi che si chiamava tipo G-Sides. Quindi troverete da qualche parte su internet la versione di Clint Eastwood con i Fi Life Cypher, poi magari va a passarmi in radio. E basta, non sono più attivi dal 2012, quindi nulla. Vi posso dire quanti dischi hanno fatto? State se volete saperlo. 4 dischi. Grandi. Uno con Skit Slam. Hai detto nulla. Ti ricordi Skit Slam? E beh, e poi hanno fatto un sacco di EP singoli in realtà, però vabbè, regà. E poi si sono fatte un paio di tour con lo stesso che Gorillaz e con DJ Vadim. Andiamo avanti e veniamo all'ultima coppia di brani selezionati apposta per voi da Mars e Vintro su Radio Wombat. Adesso ragazzi, abbiamo un pezzone storico. Abbiamo un pezzone storico, provocativo e divertente. Provocativo? Si dice così. No, si dice provocante. Allora, io ve l'ho detto, oggi non ci sto con la testa perché questo caldo mi sta veramente facendo uscire per vie sudorali o sudore, e anche questo mi risulta un po' difficile. Tutti i neuroni, quindi non mi ascoltate troppo, cioè prendete con le pinze tutto quello che sto per dirvi. Comunque, quindi, è un pezzo molto divertente. Come il possibile e l'impossibile. Ben oltre l'impossibile, bensì fino al possibile. Esatto, esattamente lì. Inventiamo termini. Esatto. Niente, stiamo parlando di un pezzo molto divertente, anche qui il campione potete riconoscerlo subito se siete attenti. E niente, ve lo facciamo sentire subito, è un pezzo molto divertente, in realtà appunto provocatorio. Provocatorio. Ma non provocativo. Ma non provocativo e neanche provocante. No, provocante è un provocante, termine, sì, è un termine che esiste. Vabbè, ragazzi, io abbandono i dizionari. Nonostante i miei lunghissimi studi. E niente, stiamo parlando degli Stadio. Regà, cioè passiamo un pezzo degli Stadio, ma vi rendete conto? Ma ridete un po' con noi. Ho dovuto ridere tanto per dirgli, dai ti prego passiamo sto pezzo, ti prego. Alla fine ho vinto. Sono rompicoglioni di turno. E il pezzo è Porno in TV e... Regà, vostro. Abbasso la TV, vive porno, andiamo con gli Stadio. C'è tutto bianco, meglio tornare a letto, sono stanco. Poi è domenica, io mi stendo, tu mi massaggi, teneramente come sei tu, come nevica. Ma comincio a sentire più caldo, continua ancora così, anzi sali più in alto. Vuoi la musica? Musica, accendi la radio, voglio vederti uscire nuda dall'armadio. Ci studiamo e continuiamo il nostro porno nell'armadio. quegli occhioni neri. Fa freddo davvero, ti scaldo la punta dei piedi. E se nevica, noi ricominciamo da capo. Vuoi vedere perfino che riusciamo a darci un bacio? Ma come baci bene, e non vorrei staccarmi più. Per fortuna che si è rotta la TV. Ma che lingua eccezionale, senza neanche respirare. Sembra un'elica nel mare, è bellissimo, continua a nevicare. Ok, speriamo che vi sia piaciuto comunque un pochino questo pezzo. È divertentissimo, raga, sto pezzo è bellissimo, è una ficcata pazzesca. Come porno la TV! Stiamo parlando degli stadi, infatti. Questo pezzo era dell'84 e viene fuori dall'album La faccia delle donne, appunto degli stadi, che sono un gruppo bolognese, se non sbaglio, mi sembra. Bolognese. Sì, che si forma appunto nel 77. E che è composto da, vi dico tutti i nomi e cognomi, sperando di non sbagliare gli accenti, che anche qui potrei, ecco, inciampare. Gaetano Curreri, che fa da voce e tastiera, Giovanni Pezzoli, batteria, Roberto Drovandi al basso e Andrea Forniglia alla chitarra. Ricordiamo che hanno vinto anche il Festival di Sanremo nel 2016 con la canzone Un giorno mi dirai. Detto questo, loro hanno questa cosa molto carina in realtà, che me li fa stare piuttosto simpatici, che nascono come band di accompagnamento a quello che era Lucio Dalla. Quindi ecco, non stiamo parlando di piccola gente, ma di grandi cantautori del paese italiano, ecco. Detto questo, basta, proseguono ora. Vediamo un pochino quanti. Allora, fanno uscire una valanga di dischi, veramente un sacco. Quando è uscito l'ultimo? L'ultimo è uscito nel 2016, dopo Sanremo. Nice. E niente, chi poteva campionare? Cioè, sono ancora in attività, ovviamente, ma chi poteva campionare? Una mattina, esatto, decidere di campionare gli stadio, insomma. Una sola persona. L'avrete capito? Avrete capito. Dai, ce la potete fare. Dai, dai, dai, dai, dai. Chi aspetti che ti risponda esattamente? Ah, devo dirlo io? Dai, dai, dai. Allora, stiamo parlando di un pezzo dei Colle del Fomento, ma tanto l'avete capito, si è detto colle un pochino disturbantemente. Il colle del frumento sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo, il collo del frumento. Bella. Bellissimo. Facciamo una cover band. La colla è di frumento. Ma una perla dopo l'altra. faremo una cover band sui colli del frumento. Sarebbe bellissimo, ragazzi, cantare questi pezzi live sarebbe una bomba. Vabbè, insomma, sapete chi l'ha tagliato, quindi parliamo di Ice One. Sì. Quando ai tempi era ancora nella formazione ufficiale del Colle. Aveva la stessa faccia che ha adesso. Aveva la stessa altezza, probabilmente. Sì, anche gli stessi uguale. Baffi. Tu dici, ah, mi ha avuto i baffi? Sì. Infatti. Ah. Non si vedono, ma ce li ha. Ce li ha. Sono due. Uno qua, uno qua. Forse un terzo qua. Fantastico as one, naturalmente scherziamo. Il Colle del Fomento fa uscire una tra, fa uscire un disco, era l'anno 1997 se non sbaglio, 96-97. Che uscì Scienza WH, cioè un discone, che odio pieno, sì, è stato un bel disco, ma Scienza WH è stato un discone. Sì. E c'è un pezzo che si chiama Vita, puntini, puntini, puntini, è proprio il titolo, ci sono puntini. Però te puoi dirlo, e io invece non potrei dirlo. Che vedo, me lo dico in italiano. Non dico Vita, dot, dot, dot, preferisci? No, suona male. Quindi niente, raga, Ice One ha tagliato il pezzo dell'Istadio, ha fatto un beat, una bomba, il danno è masito, c'è uno scritto sopra, è uscita una bomba. Ora, visto che dobbiamo chiudere la puntata, non vi parleremo del Colle, perché abbiamo già fatto parlato tantissime volte, penso che siate saturi di notizie. Esatto, vedo, quindi non vi diremo più nulla, vi salutiamo. Vi salutiamo, un bacione da Vintro. E vi saluto. Bello. Vi auguro di bere soltanto birre fredde, perché le birre calde fanno schifo. Questa è la... L'ho detto tenendo una birra calda in mano. La massima della... Io voglio essere sincero col mondo che mi circonda, e anche con voi che non mi cagate, stronzi. Non posso neanche tagliare lo stronzi, perché c'è la musica da sotto, che non posso fare nulla. La lunaticità del caldo. Porno in TV. Ecco, esatto, esatto. Vi salutiamo così con i Colle del Fomento, che non deluderò mai, e vi ci sentiamo settimana prossima. Se va bene, sì. Se no facciamo replica come la scorsa volta. Dai, yeah. Regà, bella, ciao. Se ciao. Ciao. Chi c'è? Sì. Chi c'è? Qui. Danno, Ice One, Masito Fresco, Colle del Fomento. Chi c'è? Sì. Chi c'è? C'è qui. Ognuno col suo passo che passa. Un tale si sveglia la mattina, ogni mattina è vivere. Si guarda nello specchio ma non sa più ridere. C'è chi nasce figlio di puttana, chi ci diventa. Per chi la vita parte a 60, per chi finisce a 30. Pensa attentamente mentre guarda intorno. Vive nel mezzo, mai in alto, mai in fondo, vivere è capire ciò che raccogli, chi non fa mosse pur di non fare sbagli, chi se la scopa bestia per dimostrare a se stesso, chi l'ha scordata in cambio del successo, ed entra un cesso, a chi te lo strisce, se la tira, finisce per annarci a roda pur de sa sempre ad un'ira, vita, bella la vita, che viene e va, qualcuno fa finta che non sia sua sta vita qua, ma la vita conosce i suoi figli, combattono mentre altri scappano come conigli, fra chi spinge chi va avanti perché gli altri spingono, chi sta sveglio quando tutti gli altri dormono, chi beve spiglio e fumo senza mai fumasselo, chi vivendo se lo fuma senza mai pagasselo, c'è chi c'è rimasto sotto in un sacco è stato, chi guarda indietro, chi indietro non ci ha mai guardato, vive la vita dall'esterno, gioca col fuoco perché mi dice tanto qua è già un inferno, il tale torna a casa la sera TV già accesa, chiude gli occhi perché sa che qua non c'è resa, comincia a mangiare, si sente stressato e la mattina dopo si sveglia sempre più incazzato, eccoci siamo venuti per poco, perché per poco si va come satelliti sulla città, catalizziamo l'energia partendo dalla realtà, la realtà, eccoci siamo venuti per poco, perché per poco si va come satelliti sulla città, catalizziamo l'energia partendo dalla realtà, vita, la gente cosa ne sa niente, lo assaggia soltanto, lo guarda passando distante, chi pensa troppo prima di agire, chi resta nel suo posto, chi sa sempre quello che deve fare, niente di tutto questo è vita per un massiccio che sa qual è il significato di sfida continua, come chi sfida la vita per niente, chi non la vive realmente e si ritrova sempre più distante da qui, fino alla fine solo un passo passa così, per ogni sfizio uno screzzo, vivi l'uomo, vive con me in questo testo, resta con me questa energia ad ogni costo, come un fiume che rompe gli argini, scrivo sensazioni sul suono che racconta immagini, l'unico spiraglio in mezzo a cose futili, l'unica cosa che salva me e i miei simili nei momenti difficili, eccoci, siamo più forti di prima, l'asfalto che ho intorno è sempre quello di Roma, la gente che passa non sa come suona, io resto così perché è così che funziona la mia di vita, spesso più parole che fatti, a volte più risultati che inutili progetti, paga la vita in fretta come in taxi, esci dal taxi, paga la vita per i vizi, bella sì, soltanto un punto di vista diverso dal tuo, soltanto questo sorpassa, qualcosa che manca che noi prenderemo, se non la troveremo qui cercheremo, eccoci, siamo venuti per poco, perché per poco si va come satelliti sulla città, catalizziamo l'energia partendo dalla realtà, la realtà, ecco.